Durante l'intensa conversazione con l'angelo, riceve la notizia che Elisabetta, sua padrina, è incinta. La Vergine e la sterile si trovano a vivere sul proprio corpo i segni concreti di una storia che genera libertà, giustizia, salvezza, cioè il Signore non ha dimenticato l'antica promessa, non è rimasto indifferente alle sofferenze della gente e ha visitato il suo popolo. E sui monti, là dove per la fatica si era fatto corto il respiro della donna, in quel silenzio sospeso, si sentì avvolgere da pensieri che poi le accadde di condividere con la cugina Elisabetta. Avvertì una grandezza, quella vera, quell'essere visitata e abitata da Dio, lo sguardo di Dio. Aveva visto la sterilità dell'una e la piccolezza dell'altra. Faccio una piccola parentesi senza esaltare nessun genere. Le donne hanno una profondità interiore, intelligente nel senso del leggere dentro le loro storie con Dio, su Dio che guarda, un Dio che visita, nel segno del grembo rigonfio, la grandezza, pensava la donna, dipende dall'essere visitati e abitati, dipende da chi e da che cosa ci abita. Allora faccio un passaggio ulteriore. Mentre le due donne vogliono capire meglio quegli eventi straordinari, per ascoltare la parola dell'altro, cioè la voce di Dio, a noi possono sorgere delle domande spontanee. Che cosa avrà pensato quella giovane donna durante il faticoso percorso che la separava da Elisabetta? Avrà avuto paura del futuro? Avrà temuto la reazione della parente? E se fosse stato tutto un abbaglio? E se nel suo ventre non si fosse generata nessuna vita? Peggio, e non fosse stata creduta lei. Ma siamo grati che la lingua di Elisabetta non sia rimasta muta come quella del marito Zaccaria, che il suo cuore non sia stato vinto dal pregiudizio, dall'incredulità, dubitando dello stato della ragazza. Elisabetta accoglie Maria con parole forti, capaci di ogni preoccupazione, ma anche parole che incoraggiano, benedicono, rafforzano, confermano. Benedetta sei tu tra le donne. E aggiunge, benedetto il frutto del tuo seno. Una domanda forte. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga a me? E in quel momento il volto di Maria fa trasparire il sorriso. Perché? Perché si sente accolta e si scioglie in un canto di lode. Canta perché sa che non è più sola, non solo perché lo Spirito del Signore è su di lei, ma anche perché l'accompagnano la stima, l'affetto, la benedizione di un'amica. Donne di diversa generazione si accolgono reciprocamente e mettono in comune la propria esperienza di vita e anche di fede. C'è un piccolo pensiero che domina per chiudere. Pensate al fascino di questo suggerire le cose del Signore. Un abbraccio diventa Pentecoste, l'abitazione dello Spirito. Anche i nostri incontri, perché la vita è, se è fatta di incontri, il segno di una importanza forte, perché si rinnova anche lì, magari noi non lo sappiamo, non ci pensiamo neanche, ma avviene una nuova Pentecoste nei nostri incontri. C'è un pensiero che voglio lasciare così come ricordo di questa quarta domenica, che vuol dire ogni uomo per nascere deve venire alla luce. Da quel fondo oscuro che è il ventre della madre, l'antro dove siamo concepiti per una nascita, quella nascita che da sola non basta e che deve invece richiede, invoca rinascita per trovare il suo senso, per trovare il suo destino, per trovare la sua felicità nell'incontro con questo Dio che ci abita. Gloria a Dio nell'alto del cielo.